cose grandi ed importanti, come onde nel mare, come macchie sul sole, come alberi e nuvole. Così sono ancora qui, ma tu lo sai, non è un ritorno, perché siamo sempre noi, per ogni volta il primo giorno. Come onde nel mare che non restano uguali, si trasformano e fuggono via. Siamo perfetto, se mi